prima di cominciare la vostra diretta, volevo dirvi che bisogna entrare nello studio di Giuoco per essere padroni di Giuoco. Non cambierei mai la vostra rosa con la rosa di nessun'altra radio. Voi entrate in studio sapendo di essere i più forti. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Movimento di Astori, di testa Astori, traversa, poi la prende e la portiere, attenzione, e qui non si capisce se l'arbitro ha dato il gol o meno. Sì. L'ha dato, perché adesso sono quelle dell'Udinese che protestano. Gol di Astori, Roma in vantaggio. Allora qui ci devono aiutare le immagini, la palla non è sicuramente rimbalzata oltre la linea, secondo me, per come ho visto io. Secondo me non è gol, Maurizio, perché rimbalza sulla linea di porta, non completamente oltre, perlomeno da questa immagine mi è sembrata così. Abbiamo la linea ovviamente impallata. Scusate, gioca più parole dal palo. Il palo comunque è la linea di porta. Vediamo se il pallone si vede tutto. Il pallone non si vede tutto. Non è gol. Da qui però, Luca. Sì, ma l'immagine non è questa, Maurizio. È quella. No, però magari più tardi, se riusciamo a bloccare, perché da questa immagine, proprio linea, potrebbe essere entrato del tutto. Insomma, qualche dubbio c'è. Sono due immagini diverse, una che sembrerebbe insomma dire che il pallone ha preso in buona parte la linea, però quest'ultima immagine effettivamente sembra raccontare il contrario. Buongiorno a tutti. Dunque, nella calza della Befana, mentre la Roma sta giocando a Udine con l'Udinese e noi abbiamo un'ora di tempo per parlare, per aspettare la fine di questa partita, nella calza della Befana un gol fantasma. 800240024 è il numero verde. Ciao Franco Pietro. Ti sei portato la Befana oggi, giustamente. Mi sono portato la Befana e questo gol che ancora non abbiamo capito se era dentro o era fuori, questo gol di Astori che sta permettendo alla Roma di vincere 1-0 mentre l'Udinese va vicina, mentre la Roma va vicina al gol del raddoppio, però per il momento è 1-0, è 1-0 con questo gol fantasma e ancora non abbiamo capito se è dentro o è fuori. Ma la tecnologia costa troppo, lo sappiamo dalle nostre parti. Ma non è vero, dopo facciamo i conti. Non è permessa, non è consentita. Non costa troppo, dopo facciamo i conti, perché li abbiamo fatti. Hai voi subito i soldi? Li vuoi subito i conti? Subito i soldi. Allora, a weekend Roma 1 Udinese 0, 33:19 sul cronometro, con questo gol fantasma. Questa sera la Juventus gioca derby d'Italia. Il derby d'Italia in casa contro l'Inter e poi domani sai anche tu il casino che succederà, perché se finisce così 1-0 per la Roma con questo gol non gol, sappiamo bene quello che accadrà. L'arbitro di porta ha detto il signor Maresca si è grosso modo girato dall'altra parte. No, praticamente sostanzialmente è andata che l'arbitro di porta non aveva dato gol, invece l'arbitro della partita, che è il signor Guida, ha detto: ho visto io. Certo, ha deciso dalla lui, sua prospettiva, come sempre era accade. La prospettiva frontale rispetto a quella dell'arbitro di porta, che invece aveva il pallone a 20 centimetri dietro il palo, ed è andata così. Ma quanto guadagna un arbitro di porta? Quanto guadagna un arbitro di porta? 80 euro lordi. Buttati via, questo non lo so, bisogna vedere. Ad oggi quanto costa la tecnologia? Quindi facendo un calcolo, gli arbitri di porta costano circa 738.000 euro l'anno. La tecnologia di porta costa, come sappiamo, attorno ai 250.000 euro a squadra. Quindi è logico che, certo, costano di meno. Sarebbe a carico... Stiamo vedendo questa partita in uno stadio praticamente nuovo facendo, che stanno facendo, di proprietà dell'Udinese, eccetera eccetera. Però questa partita paradossalmente Pozzo sarà felice di iniziare l'anno così, sarà inadeguato come Valeri per Pozzo il signor Maresca. No, ma io voglio chiedere agli ascoltatori se secondo loro era gol oppure no. 800 24 00 24, per chi l'ha visto secondo te? Secco. Non ho ancora capito. Non ho ancora capito. No, secondo me non è gol. Anche secondo me non è gol. Secondo me non è gol. Abbiamo visto 200 inquadrature. Io mi fido secondo di quella me... sì. Filo palo della telecamera frontale, filo palo, non mi fido. No, filo palo secondo me non è gol, però la guida l'ha concesso e dunque la Roma sta vincendo 1-0, dunque la Juventus avrà la pressione addosso questa sera contro l'Inter. Dunque si scateneranno un sacco di polemiche. Dunque si tornerà a parlare da domani di una tecnologia lungo la linea di porta che non viene consentita perché costa troppo. Che però non è vero, come abbiamo visto, che i dati dicono che non è vero. Ma la cosa geniale di questa cosa è che la partita con più polemiche è stata messa alle 12:30. Così noi abbiamo tutto il pomeriggio e tutta la sera per parlarne. Cioè, questa è scientificità, no? Scherzo. A parte, sì, intanto a parte abbiamo, a parte gli scherzi. Intanto abbiamo la Lazio che ieri sera Lazio bene, eh? Molto bene Lazio ieri sera, 3-0 contro la Sampdoria, principale candidata a questo punto al terzo posto. Oggi pomeriggio dobbiamo vedere il Milan che ha provato a darsi una rinfrescata con Cerci. Anche questa Cerci sera... ha provato a darsi una rinfrescata tagliandosi la barba come per volere, indossando un numero importante per la storia del Milan. L'Inter avrà Podolski, che è una rinfrescata, ma secondo me mica poi tanto, perché non ti è piace? Quello... È quello che serve? Ma all'Inter servirebbero un sacco di cose, non so se Cerci, cioè se Podolski era se Podolski il primo ritocco necessario. È il primo ritocco necessario, certamente per l'opinione pubblica sarà importante vedere qualche cosa di nuovo questa sera a Torino, dove l'Inter secondo me perderà la partita. Secco, così sei andato, sì. Tu sei dritto per dritto. L'Inter perderà la partita, intanto siamo al 37-05 e la Roma vince 1-0 con l'Udinese con il gol fantasma. Ecco, bravo, tu ti rendi conto che hai parlato delle partite del pomeriggio, della sera, ma quel che conta è, era dentro o era fuori? Perché è di questo che parleremo. La palla secondo me, se facciamo la proiezione ortogonale della la palla sulla linea di porta, secondo me, ma sentiamo Astori che spiega esattamente come è andata la dinamica. Ma cosa, cioè... ne sa Astori? No, cosa ne può sapere? Era lì, va bene, deciso... ma cosa ne può sapere lui? Il fatto che abbia deciso l'arbitro, però, è emblematico. Gli arbitri di porta a questo punto non servono a niente. 800 24 00 24, chiamateci se avete coraggio. Astori. Credo che l'arbitro abbia sempre l'ultimo parere. Credo abbia visto bene, è ovvio, io devo riguardare l'immagine, però sono contento per il gol, sono contento di aver festeggiato il compleanno con un giorno d'anticipo. Maresca, perché abbiamo le immagini, cosa ti ha detto? No, ha detto che secondo lui non era gol, è un'opinione normale che a velocità reale possa sembrare diverso da quel che è. Guida si è preso una grossa responsabilità. Guida si è presa una grossa responsabilità, non se l'è presa invece l'arbitro di porta che costa 1.080. Come un assistente, come un guardalinea. Una cosa da niente, però il discorso è che la tecnologia lungo la linea di porta, che è stata adottata in tutti e che verrà adottata in tutti i principali campionati europei, nel nostro campionato invece è stata bocciata, paradossalmente, perché il nostro è il campionato in cui si sente maggiormente l'esigenza della moviola, l'esigenza della certezza del diritto, di tutte queste cose, paradossalmente è stata bocciata e dunque siamo di fronte a una corsa a scudetto che comunque verrà non decisa certamente, ma condizionata da un episodio della Befana. Laura da Roma, buongiorno. Sì, da Faenza. Senti, che S? Laura, manoscritto da Roma, la perdono. S bellissima. Chiedo venia, manoscritto da Roma, 800 24 00 24, dica. da Faenza. No, io volevo dire, ieri sera ho letto sul televideo che l'allenatore dell'Udinese ha fatto grandi elogi alla Roma perché lui è tifoso della Roma. Secondo voi vi sembra corretto che prima di una partita l'allenatore della squadra avversaria faccia tutti questi elogi? Come era capitato in Sassuolo-Roma. No. Perché, allora, perché no? Perché no, Garcia, allora, Garcia adesso cosa avrà da rimpiangere ancora la partita? Ma no, ma io sono una Juventina. Garcia cosa avrà da rimpiangere? Garcia è un grande, è un grande tifoso dell'Udinese. Lo sappiamo per certo. Che prima sin dai tempi di Lille. Sì, sì, dai tempi della sua infanzia. Ecco, allora, Garcia adesso, cosa da dire su questo gol, no, visto che ha durato a piangere sulla partita Juventus-Roma? Permettetemi una cosa, sì, quando dica. La Juve ha pareggiato le sue partite, come mai la Roma non l'ha superata? Grazie, scusatemi. Laura da Faenza, grazie a lei. No, ma signora Laura, romano, bravissimo, romano. Romano, tifoso non è che è tifoso della Roma, è cresciuto calcisticamente come allenatore nella Roma, perché per 6 anni ha fatto l'allenatore del settore giovanile giallorosso, quindi è logico che sia in un certo modo legato. Però se n'è anche andato per passare all'Inter non sbattendo la porta, però ha un legame affettivo, quindi ci sta che dica che la Roma è la regina del campionato, è la squadra migliore. Intanto adesso mi sembra, sto guardando le immagini, mi sembra sia stato espulso da guida per un episodio contestato nell'area giallorossa, come se non bastasse. Insomma, sappiamo bene come Stramaccioni sia romano, tifoso della Roma, tutte queste cose, però sappiamo anche altrettanto bene come queste cose si è espulso non Stramaccioni, contino fino non siano così importanti, Laura, non siano così importanti. Stiamo parlando di professionisti, stiamo parlando di un gol non gol sul quale Stramaccioni e la sua fede giallorossa non contano nulla. Stiamo parlando di un episodio che poteva essere serenamente deciso da una telecamera, da un pallone con il chip, da quello che vogliamo lungo la linea di porta, e adesso staremo qui a parlare di questo gol non gol sul quale Stramaccioni non conta nulla, sul quale la Roma non ha alcuna responsabilità. Abbiamo sentito Astori, ovviamente Astori non può sapere se la palla aveva superato o meno la linea di porta. Dunque stiamo parlando di una questione geometrica, che in Italia, il paese della moviola, il paese in cui si vuole la certezza del diritto, il paese in cui c'è stato Moggi, il paese in cui ci sono state mille polemiche, ebbene, si è deciso che questa tecnologia costa troppo e dunque non verrà utilizzata. Bravo, ma perché tu hai detto la tecnologia, la Goal Line Technology, risolverebbe il problema del gol non gol serenamente. Ecco, in verità, serenamente in Italia è un aggettivo che non va bene, lo risolverebbe sicuramente il problema del gol non gol. Ma a noi piacciono le polemiche, piace, infatti subito dopo il traffico parleremo con Gianni dalla provincia di Forlì, e spero che questa volta la segnalazione sia corretta. 800 24 00 24, De Santis che respinge di pugno un pallone difficile, per la verità. Siamo al minuto 42 e 54 secondi, la Roma sta vincendo 1-0 questa importantissima partita. Lo calcio d'angolo, calcio d'angolo è una finta. Ammonito Torosidis sul calcio d'angolo rigore, prima della battuta. Torosidis. Adesso si proverà a ribattere questo calcio d'angolo a favore dell'Udinese, subito dopo il traffico ve lo raccontiamo. Convocati. Anche in questo caso, se mi permette, parliamo di niente. Perché le dico parliamo di niente? Perché da quando è stato introdotto l'arbitro di area, che è stato introdotto esclusivamente all'inizio per vedere il gol non gol e poi magari anche in supporto ad alcune decisioni dell'arbitro centrale, o vedere occhi in più vedono cose in più, Mi preme ricordare che da quando c'è stata questa introduzione non è mai stata sbagliata la valutazione di una rete entrata o non entrata. Dunque chi era questo Piattanina? Questo era Nicky, il capo degli arbitri, che l'ha gufata il primo dicembre, ha detto gli arbitri di porta non sbagliano mai. gli arbitri di porta non sbagliano, ma d'altra parte non onestamente non è una questione di arbitro di porta, non è una questione di errore, non è, è semplicemente una questione geometrica, una questione di decisione, mentre sul calcio d'angolo di qui sopra, che non abbiamo raccontato in diretta, non è successo nulla se non il fatto che Di Natale sia stato sbattuto per terra da Ciolevas, da qualche romanista. Guida non ha deciso nulla. Ma era Terò. Sono stati concessi 5 minuti di recupero per questa partita, 20 secondi se ne sono già andati, la Roma sta vincendo 1-0 e Gianni dalla provincia di Forlì è in linea. Buongiorno. Gianni? Sì, pronto. Era gol o non era gol? 800-24-00-24, sì, perché ognuno avrà la sua idea, la sua opinione, anche in funzione della fede che si porta nel cuore. Dica. Volevo confermare che chiamo da Scoglitti. Laura da Roma era da Faenza, Gianni dalla provincia di Cesena è da Scoglitti, che è da un'altra parte. Ma perché? Spieghiamo un secondo solo, perché oggi è un secondo, Gianni, perché oggi è un giorno di festa. Anche al centralino, le nostre amiche Rosa si stava prendendo un giorno di festa. Ma è meraviglioso questo. Perché non si aspettavano così tante telefonate. Invece, grazie al gol di Astori. A me piace un sacco il fatto che ci sia questo melting pot lungo tutta la penisola. Dica, Gianni. Dov'è Scoglitti? Allora, posso parlare? Vai, Gianni. Allora, innanzitutto io volevo fare i complimenti per la trasmissione. Grazie. Sì, per la compagnia che fate, che date a me e a tutti, diciamo, quelli che lavoriamo qua insieme. Allora, per quanto riguarda il gol, fantasma non fantasma, lo sappiamo tutti. Ormai, se capitava alla Juventus, se ne parlava prima all'anno prossimo, fino al 2016. Ma io credo che anche trattandosi di Roma se ne parlerà fino al 2016. Secondo me solo quando capitano alla Juventus le cose se ne parla sempre. Dice. Non sono così convinto perché di questo 1-0, 47 e 12 sul cronometro, Roma 1 Udinese 0 o Roma mezzo Udinese 0 o Roma 0 Udinese 0. No, ma pesa, cioè questa decisione pesa. Questa decisione pesa. Non è questione del fatto che una decisione pesa più a favore della Juve, se ne parla di più, se ne parla di meno, anche perché questa è lotto a scudetto, stiamo parlando di lotto a scudetto, quindi influirà nello stesso modo, se ne parlerà nello stesso modo, non se ne parlerà nello stesso modo, questo dipende anche da noi o non dipenderà anche da noi, dipende dagli ascoltatori, però è così. Ma abbiamo un ospite. Massimo Chiesa, buongiorno. Ciao Massimo. Ciao Carlo, buon anno anche. Buon anno anche a te, Massimo. Senti, a cosa serve l'arbitro di porta? Me lo spieghi tu che sei stato arbitro di Serie A e che non hai avuto gli arbitri di porta. Che non hai avuto gli arbitri. A cosa serve? Fortunatamente non li ho avuti. A cosa serve? Ma tu Carlo lo sai, io sono contrario da sempre, dal momento dell'introduzione. Questa è un'ulteriore dimostrazione. Ho visto un paio di immagini volanti, non sembra essere entrato, però qua non è tanto il problema. Guida si è assunto la responsabilità, probabilmente ha sbagliato. Mi fa piacere che in ogni caso, in assenza di collaborazione, cioè il fatto che abbia deciso lui è indicativo. Esatto, mentre l'arbitro di porta si è girato dall'altra parte, no? Esatto, cioè credo che sia assolutamente indicativo dell'assoluta, non voglio dire inutilità, perché in certe situazioni sono stati utili, qua però è il paragone che non tiene con la tecnologia. Sì, ma il problema è che, Massimo, nessun essere umano probabilmente può decidere con in un nanosecondo e con l'occhio fotografico se quella palla è entrata oppure no, quindi non stiamo discutendo di colpe, dolo, responsabilità, eccetera, eccetera. Stiamo discutendo di un fatto che non è possibile decidere con l'occhio umano in un nanosecondo, no? Esatto, no, è proprio questo il punto. Per cui a questo punto diventa assolutamente anacronistica una posizione contro la tecnologia per quello che concerne il gol non gol. Anche in questo caso ci sarebbe una sentenza inappellabile, mentre l'occhio umano probabilmente darà ancora. ad errori. È una situazione di gioco oggettiva, è una delle pochissime situazioni di gioco del calcio oggettive e non, secondo me non ci sono soldi che tengano, guarda, costasse anche il doppio. Non, secondo me non si può fare filosofia sull'introduzione della goal line technology. Massimo Chiesa, che è un vecchio amico, sa benissimo come la penso. Io sono e sarò sempre contrario alla moviola in campo, che non ho neanche capito bene che cosa possa significare. Mentre finisce in questo momento Udinese-Roma 0-1, gol di Astori, gol o non gol al 18° del primo tempo, ed è una partita che ci porteremo dietro per un sacco di mesi. Massimo Chiesa, che è un vecchio amico, sa perfettamente come io la penso sulla moviola in campo, sa anche perfettamente come la penso sulle questioni geometriche, che in Italia, Massimo, non si è deciso di bocciare per questioni economiche. Esatto, si è deciso di bocciare per questioni economiche, o perlomeno è l'ultima spiaggia per tentare di bocciarle. Adesso si è ricorsi alla questione economica, perché prima credo che fosse proprio un discorso di convinzione, secondo me errato, sull'opportunità o meno. Siamo indietro perché poteva e doveva già essere fatto, per cui questi casi di gol non gol. Noi ne abbiamo già tante polemiche nel nostro campionato, perché anche la partita di oggi, ad esempio, l'accenno al fallo di Romano, probabilmente quello era calcio di rigore. Cioè, voglio dire, discutiamo di questo, che non è un problema di centimetri, e assolutamente l'immagine che vedo ora sembra invece confermare il fatto che il pallone sia entrato, devo dire obiettivamente. Sì, ma tanto però, Massimo, cioè, non era questo. Paradossalmente, Massimo, non è questo il problema. Cioè, non è il problema se dopo averlo visto mille volte, dopo aver visto mille filmati, mille instant replay, sapremo se era gol o non gol. Il problema è, secondo me, si tratta di capire se questa tecnologia dà fastidio a qualcuno alla fine, no? Sembra quasi di sì. Si offre la verità e viene rifiutata, confutata da degli errori umanissimi, però sempre degli errori evitabili allo stato attuale delle cose. Senti, come hai visto la Roma oggi? Parlando di calcio, se si può parlare di calcio. Ma non l'ho vista a sprazzi, devo dirti la verità, però non l'ho vista male. Chi veramente ho visto male è stata la Sampdoria. Cioè, la Roma sembra non aver risentito tantissimo della sosta natalizia determinata. Diciamo che sembra una squadra con sempre più coscienza della propria forza e della possibilità di contendere realmente lo scudetto alla Juventus. Sì, intanto la Juventus la vediamo questa sera contro un Inter che avrà Podolski, che secondo me è una specie di aspirina. Sentiamo, Massimo, stai lì un attimo, sentiamo i Turbe. Sappiamo che la Roma entra in campo per vincere, grazie a Dio abbiamo vinto questa partita. Sappiamo anche che non era facile, ma abbiamo riuscito a vincere. Si parlerà tantissimo di quel gol di Astori. Tu cosa hai visto? Che impressione hai avuto? Ma è entrato, l'ho visto dopo l'espulatorio, è entrata la palla. No, non posso dire niente, penso che il quinto arbitro non l'ha vista, ma quell'altro sì, penso che ne sono stato aspettato il gol. Con questa vittoria avete risposto alla Lazio ieri sera. Se secondo i Turbe è entrato, allora i Turbe io lo promuoverei a designatore. No. Cosa dici? Può essere un'alternativa. No, vabbè, ma queste sono teneri come dichiarazione. Dipende dalla maglia che hai addosso, no? Esatto, Massimo? Esatto, assolutamente sì. No, un'indicazione importante per Garcia a livello tecnico, tattico, insomma, proprio dal punto di vista del campo e non delle moviole, è il rientro di Strootman, che ha giocato titolare e ha giocato una partita come non tecnico. È gol, non è gol. Sto vedendo un'altra immagine, sto vedendo mille immagini, non è gol, ma tanto chi se ne importa, cioè non è questo il problema, il problema è che Guida si è preso una enorme responsabilità, l'arbitro di porta si aggira, che costa 1.080 euro lordi a partita, lordi a partita, ma fossero anche 10.800 euro lordi a partita, comunque non avrebbe potuto decidere, Massimo. No, assolutamente no. No, ma io l'avevo sottolineato in apertura di collegamento, cioè mi è piaciuto il fatto che Guida, indipendentemente dal fatto che l'abbia beccata o meno, si è assunto la responsabilità, però tornando al discorso di base, è un'ulteriore dimostrazione che ci vuole la tecnologia, perché a quel punto allora con dominio arbitrale non è servito una volta di più. Grazie Massimo, un abbraccio, grazie, buon anno ancora. Ciao Massimo. Ciao Massimo Chiesa. Piero alla provincia di Pavia, 800240024, gol o non gol? Sì, dunque, io vorrei uscire un attimo dalla polemica. No, un attimo, gol o non gol? Poi Chiesa. Usciamo dalla polemica. Poi usciamo usciamo da dove vuole, siccome ma gol o non gol? Siccome io sono in auto e non ho la televisione nell'auto. Vabbè, allora mi arrendo. No, però volevo dire un'opinione che secondo me è... c'entra con questo discorso, perché allo stato attuale l'arbitro può condizionare in mille modi una partita, perché l'arbitro è un essere umano, quindi a questo punto direi, a mio avviso, le polemiche sono sterili, perché se ci concentriamo soltanto sul fatto che la palla sia entrata o no, ma non guardiamo le altre varianti di produzione arbitrale, il quale può condizionare la partita in mille altri modi, rigore, diciamo punizione data o non data, quindi ogni partita sarebbe soggetta a mille recriminazioni, quindi non... E lo è. Usciamo un po' dalla mentalità un po' troppo italiana. Che ma come facciamo? Piero, come facciamo a uscire da questa mentalità? Io vedo che all'estero mi sembra che ci sia un po' meno, diciamo, un po' meno polemica. Infatti, quando i giocatori stranieri vengono in Italia si trovano in un clima completamente diverso. Io reputo che allo stato attuale, qui concludo, allo stato attuale, per il fatto che noi siamo l'arbitro, a questo punto gol o non gol è un'influenza, in quanto l'arbitro può condizionarla in mille altri modi. Volevo un attimo. Allora da un lato è una questione di accettazione dell'errore, come abbiamo sempre detto. Se siamo disposti ad accettare l'errore, non c'è problema. Esatto. All'estero vediamo come invece la tecnologia lungo la linea di porta, che è una cosa che siamo nel 2015, giusto? È già scoccata a mezzanotte. Nel 2015. Siamo ben risvegliati. Ok, nel 2015 è una cosa che, insomma, dovrebbe essere normale. Allora, la mia posizione è sempre stata questa. Io sono contrario concettualmente all'idea di una moviola in campo, perché secondo me non si deve frugare nelle tasche dell'arbitro dal punto di vista della discrezionalità. Però dal punto di vista geometrico, allora proviamo a capire se quella palla era entrata oppure no. Ma mi sembra una cosa che nel 2015 scoccato, e all'estero è una cosa dove, pur non essendoci tutta questa esigenza della certezza del diritto, è stata acclarata, è stata decisa, è stata sancita, è stata attuata e praticata. Allora, perché in Italia no? Ma negli altri paesi è stata applicata anche dove non c'è l'esigenza della polemica. In Premier League, dove è il regno di partita finita, abbracciamoci, volemosi bene, beviamo una birra assieme, e invece è stata applicata. E questo, secondo me, scava ancora un solco enorme, enorme culturale, in cui siamo dentro. Ma poi, se vogliamo discuterne, se vogliamo fare polemica, se vogliamo parlarne tutti insieme e decidiamo che va bene così, non c'è nessun problema. L'unica cosa è poi non strillare e non strapparsi la camicia se una situazione di questo tipo, onestamente enormemente difficile, viene decisa dall'arbitro guida come se la sente, come l'ha vista lui, come grosso modo gli pare. 1, 2, 3 tutti convocati. Punizione affidata a Totti, movimento di Astori, di testa Astori, traversa, poi la prende e la portiere, attenzione, e qui non si capisce se l'arbitro ha dato il gol o meno. Sì. L'ha dato, perché adesso sono quelli dell'Udinese che protestano. Gol di Astori, Roma in vantaggio. Roma in vantaggio, Roma che vince 1-0 con l'Udinese nell'anticipo dell'ora di pranzo del giorno della Befana. C'è la proiezione 3D del gol. Fammela sentire, Fabio. Insistere magari a non volere la tecnologia è veramente assurdo. Nel tennis c'è l'occhio di falco, si guarda, nel calcio è lo stesso strumento, è l'occhio di questa falco. Questa Gagliani è per la cronaca. Ha superato la linea totalmente gol, se no non è gol. È la cosa più semplice del mondo, speriamo che si convincano anche i più riottosi, quindi non si capisce. Tra l'altro, ripeto, è una cosa molto molto molto simile è capitata, questo sembrerebbe non gol evidentemente perché sfiora la linea, mi sembra di capire, una cosa uguale precisa al colpo di testa di Rami era stata considerata. La stiamo guardando da due ore questa immagine, la guarderemo fino al 18 giugno. La stiamo guardando giugno. Da due ore e poi c'è Gagliani che alle 14:35 dice questo sembra non gol, mentre Sky sta facendo tutti i cartoni animati del caso. Vediamo quest'ultimo cartone animato, sembra non gol, sembra non gol, e vedi quella fettina di pallone che sembra non essere entrata. Quella però era di Milan Udinese, l'hanno riproposto il sì, gol di Rami. Ma va bene tutto quello che vuoi, che non era gol, però comunque non lo sapremo mai. C'è una proiezione ortogonale del pallone che sembra dire che quella palla non è entrata. Poi c'è chi scrive finitela di creare zizzania, noi 800240024. Alessandro da Firenze scrive la tecnologia non è ben voluta perché così si può dare gol alle squadre potenti e non gol alle squadre deboli. Poi c'è anche Davide su Twitter, ma se non ci sono più polemiche te che lavoro ti cerchi. Che lavoro un altro. Carlo che dice non era gol, adesso Garcia che dice piangere paga, e Alessandro la differenza ma non è piangere paga lo sappiamo perfettamente nel nostro campionato, nel nostro mondo, ed è questa la strategia che è stata scelta da Garcia e dalla Roma, perché piangere paga lo sappiamo perfettamente. Fabiola, provincia di Isernia, buongiorno, grazie. Buongiorno. Dica. Ma secondo me è gol, se volete, se voi avete un cellulare vi mando una. Abbiamo un cellulare, io non ce l'ho, non lo uso. Ce l'abbiamo, no, su Twitter ci mandi, Twitter. Volano gli screenshot, che immagine ha Fabiola? Un'immagine dove la palla è dentro dentro all'incrocio dei pali. Ce la mandi via mail, l'immagine. Via mail? Tutti convocati, @radio24.it, vado subito a prenderla. Aspetta, tutti convocati. Radio 20, una parola sola, @radio24.it. Una per volta. Allora, bravo. Tutti convocati, @radio24.it, io vado a stampare e torno con la foto. Convocati, @radio24.it. 14:30, si parte tra poco. Vado a prendere la stampata della Moviola e torno. Che ve la mandiamo. Manda subito, Fabiola. E poi comunque quando si parla di squadre potenti, forse c'è la Juve che ha avuto molti benefici in questo campionato. Sì. Mi sembra. Sì, va bene, ma a prescindere. Però Fabiola, non è una questione della Roma, della Juventus, no, però eccetera. Mi sembra che tutto sia stato imperniato sul fatto che questa sera ci sia Juve-Inter. Forse qualcuno è della Juve. Ma no, ma non è, no, no, non so se no, tutto imperniato sul fatto che è una sfida scudetto e peserà, come peserà la prossima volta la Roma, non capiterà la Juve. Come è pesata la partita della Roma dove sarà gravemente penalizzata. Quindi siamo pari. Non è una responsabilità, infatti, o una colpa della Roma o della Juventus, esatto. Si tratta semplicemente di una situazione di gioco in tutte le partite, esatto, che alla fine del campionato molto difficile da chiarire, esatto, molto esatto. Difficile, e la Roma non, io credo non c'entri nulla in questa situazione. Infatti. Cioè stiamo discutendo grosso modo di massimi sistemi, perché vogliamo la certezza del diritto quantomeno sulla questione della palla che è entrata oppure no, oppure non la vogliamo perché ci dà fastidio, perché ci piace discutere, perché così possiamo dire che la Juventus è favorita, la Roma è vessata, la vogliamo o non la vogliamo? In questo caso io la penso come Massimo Chiesa di qui sopra, che ha detto, io rispetto e ammiro l'arbitro guida che non sapendo nulla, non avendo deciso, non avendo capito nulla, avendo giusto visto quell'immagine, non aiutato per nulla dall'arbitro di porta che non serve a niente al di là dei 1.080 euro lordi non serve a niente, Ma non è questione dei 1.080 euro lordi, è questione che non, sinceramente, per definire quelle situazioni l'arbitro di porta non serve, perché se una palla è come quella di Muntari, che è entrata di un metro e mezzo, vabbè, siamo capaci tutti, no, di dirlo. Se la questione è quella di della proiezione ortogonale di un pallone sulla linea di porta, non c'è arbitro, giudice di linea che tenga, non è possibile stabilirlo. Comunque, su una cosa ha ragione Fabiola. Nell'arco di un campionato, alla fine del campionato, naturalmente, non a partita in corso, non a polemiche in corso, alla fine gli episodi, il numero, la quantità degli episodi, giusti, sbagliati che siano, in linea di massima si equilibrano. Questo è ovvio, cioè non ci sarà mai uno squilibrio. Non... Sì, ma perché mi scrivono giornalisti di merda, avete rotto il cazzo, non capite nulla, vi aspettiamo. Dove ma ci aspettiamo? Non lo so, forse qua sotto. Vado a prendere la stampata di Fabiola, ma ce l'abbiamo ancora in linea, Fabiola? Ce l'abbiamo, no, Fabiola no, però no, c'è Nicola da Sondrio. No, ma c'è, vado a prendere Fabiola. La stampata. Ecco, ovviamente vado, l'indirizzo mail è riservato, quindi non lo... Ah no, va bene, non lo dico, non lo dico, vado solo a prendere, ci mancherà. Certamente, andiamo a prendere la stampata e poi commentiamo questa immagine, questo fotogramma. Grazie Fabio, la buona... La partita l'hanno vista dei ragazzi e solamente da una telecamera risultava non gol, dalle altre riprese... Ma non lo so, io ho visto, ripeto, ho visto 1.000 cartoni animati di Sky, 1.000 proiezioni, 1.000 fotogrammi... La componente umana dell'arbitro, arrebbe. Allora, posso dire la verità? Cioè, è il quarto arbitro che decide per tutto, arrebbe, è il TMO... E ho capito, però in questo caso l'arbitro di porta si è girato dall'altra parte e ha deciso guida. Quindi la dovrebbero mettere anche nel calcio un TMO come arresti. Abbiamo deciso che costa troppo, quindi ma ci sono 1.000 sistemi, non serve il TMO, cioè ci sono 1.000 sistemi che sono già utilizzati, ad esempio in Inghilterra, e che in Italia si è deciso di non perseguire, di non utilizzare, perché costano troppo. Dunque ci teniamo questa decisione dell'arbitro guida, ci teniamo l'arbitro di porta che si gira dall'altra parte, che costa 1.080 euro lordi a partita. Nicola, buongiorno. Sì, salve, buongiorno, buon anno, buona Befana e complimenti per la trasmissione. Gol o non gol? Allora, l'unica maniera per capire se era gol o non gol è adottare la tecnologia. Siccome questo non è possibile, hanno un modo di vedere quello che può essere grave. Allora, oggi, allora Nicola, facciamo chiarezza. Allora, di che squadra tiene? Non sono né romanista, io sono purtroppo milanista. Milanista, ok, d'accordo. Quindi grosso modo neutrale. A sensazione, sì, era gol oppure no? Così a pelle? No. Anche secondo me. E quello che è grave è che l'arbitro, che era sicuramente in una posizione non ideale per vedere e analizzare il fatto, ha deciso escludere, bypassare la decisione dell'arbitro dell'assistente di linea e decidere che non era gol, sì, che sicuramente, visto male o bene, era sicuramente in una posizione molto più vantaggiosa. Quindi sono 1.080 euro lorde buttate via, togliamolo. Tutte le partite che ho visto dove c'era l'arbitro di porta che poteva dare un aiuto, ma che aiuto, ma Nicola, ma che aiuto può dare su una situazione? Si tratta di una situazione di questo tipo, l'arbitro di porta, si tratta soltanto di decidere, di prendere una responsabilità. Professor Michele Plastino, buongiorno. Maestro, buongiorno a lei. Ma gol o non gol? Ma chi lo sa? Guarda, allora io stavo ascoltando e mi sembra tutto molto giusto, cioè quello che è certo è che l'arbitro di linea aveva detto che non era gol, che era nella migliore posizione di guida, il quale dice che è gol. Era una decisione molto difficile, perché anche noi non siamo neanche riusciti a capirlo bene, su questo non c'è dubbio. C'era un derby tra Compagnoni, per chi vedeva Sky, tra Compagnoni e Marchegiani, sì, perché Marchegiani, facendo riferimento al palo, diceva che non era gol, Compagnoni aveva la sensazione che fosse gol. Neanche si può dire conflitto di interessi, perché tra l'altro Marchegiani, con molta onestà, lo ricordiamo, è il figlio che gioca nella Roma, quindi sì. Senti Michele, ma secondo te a pelle era gol o no? A pelle era gol, però ti dico la verità, per me a pelle io no. A te no, a pelle? No, no. A pelle no. A me a pelle sì, per il colpo d'occhio iniziale, no? Nel senso che, adesso faccio uno scherzo, da vecchio laziale, anche se disamorato, ho detto, aia, ha fatto gol. Cosa che sei in terzo aia, in classifica? Aia, ho detto, è gol. Sei in terzo quindi... in classifica, ma dai Michele, disamorato de che? Cioè... della Lazio. Ma perché? No, va bene, è una vecchia storia. Va bene, allora facciamo così, questa vecchia storia, abbiamo il traffico, dopo me la racconti però. Convocati. Forse questa opportunità. Felipe Anderson la mette dentro e Parolo porta in vantaggio la Lazio. Ancora Felipe Anderson si inventa un assist, ma Parolo sblocca e 1-0 al 38esimo. Felipe Anderson, zona tiro per lui, va col destro, un gol fantastico. Felipe Anderson è 2-0 per la Lazio al 41esimo. Quarto gol in campionato per i brasiliani. Felipe Anderson ha innescato il turbo. Felipe Anderson imprendibile, ne ha saltati due, altri due ce li ha di fronte, vuole saltare tutti Felipe Anderson in area di rigore, straordinario, la mette per Djordjevic, va tutto in piedi per Felipe Anderson. Una partita monumentale quella del numero 7 della Lazio. Professor Michele Plastino, perché sei innamorato, ecco, di questa squadra? No, guarda, te lo spiego subito, sì. Nessuna contestazione di campagna acquisti non l'ho mai fatta, se non ai tempi della Lazio in Champions con l'unico acquisto di Vigliaroli. Per il resto a me sembra che l'apporto della società in questo senso abbia anche costruito una buona squadra che quest'anno gioca bene e che ha un buon allenatore. Detto questo, il disamore è difficile da spiegare perché bisogna viverlo a Roma, sì, da certo, sentimento laziale, però ti faccio un esempio. Qualcosa si è reso più comprensibile quest'estate nella storia di Tavecchio, nella storia di chi, sì, come il nostro presidente ha detto che non era razzista perché costruiva ospedali in Africa, citando a caso insieme a Magalli e a Beretta alcune nazioni e nessuno ha mai capito quali fossero questi ospedali, oppure perché definisce così i bambini neri. Cosa? Cioè, questo però fa parte di una mentalità che posso non approvare, siccome rappresenta la mia squadra che ho da bambino, mi ha procurato disamore. Poi fermo restando che invece critiche tecniche non ho assolutamente nulla da dire. Certo, questo... però è una questione di valutazioni personali. Ti ho detto due casi che ora si sono conosciuti. Sono perfettamente comprensibili. Poi vedi il tuo presidente anche con il giubbotto della nazionale italiana, sì, eccetera, sì, eccetera. No? Lì avete capito pure un po' al di fuori di Roma. Pensa che a Roma questa è una storia che per non male su queste cose sono vissute quotidianamente da anni. E quindi ci può essere disamore. Fermo lì, poi basta. Cioè, questo è un disamore che non vuol dire né insulto né no, niente. No, chiaro. È chiaro. Per carità, cioè, però il disamore che era testimoniato da poca gente che va alla partita, da quel famoso Lazio-Sassuolo, da, sì, quella festa dello scudetto dei 40 anni dove poi i laziali ci sono andati, quindi un motivo ci sarà, no? Per cui poi tantissimi non vanno più e sono lì un po' alla finestra, al di là delle questioni economiche di questi tempi. Grazie Michele, ti abbraccio. Grazie. Un abbraccio a te, maestro. Ciao. Ciao Michele Plastico. Allora, due cose. La prima è che ho visionato la moviola del disegnatore, della disegnatrice, sì, Fabiola. Sì. In realtà ha mandato un link del Corriere dello Sport in cui c'è un'immagine e da qui sembra che la palla sia effettivamente dentro. E poi mi è arrivata anche la moviola della seconda disegnatrice. Appena ero lì è arrivata una mail di un'ascoltatrice, Gaia, che manda invece un'altra foto. Gaia Gualdambini, bravo, bravo, il gol c'è. C'è anche Pardo dalla pancia, come, ciao, si diceva una volta, del Friuli. Luigi Pardo! Come va? Beh, insomma, è bello. Gol o non gol? Perché stiamo a pettinare le bambole, Pier, che hai commentato la partita da Udine, hai fatto la telecronaca di questa partita, cosa hai detto? Che ho detto? Innanzitutto era complicato vedere le immagini, ma insomma ci siamo riusciti. Diciamo che c'è un mezza timeline che mi insulta perché dice che il pallone è dentro di un metro e di un metro che insomma è nettamente dentro, e mezza timeline che dice che non è mai gol. Guarda, l'idea che mi sono fatto io e la mia risposta definitiva è questa: l'immagine migliore secondo me è quella dall'alto, sì, perché nell'immagine dall'alto tu vedi che c'è una striscia verde fra, sì, la linea di porta e il pallone, e quindi è dentro. Chiaramente, siccome l'immagine dall'alto non è allineata, non è c'è un po' di prospettiva, no? Devi tener conto della prospettiva. È possibile che nella parte del pallone, siccome è sferico, no? la parte che poggia, la parte che sta venendo un mal di testa clamoroso. No, sì, lo so, ma infatti, ma guarda, io già mi sono rotto. Però ti voglio dire, la parte del pallone che poggia sull'erba sì. è dentro, credo sì. che non ci siano dubbi, perché c'è l'immagine dall'alto. Stiamo parlando di proiezioni ortogonali, esatto. giusto? Detto questo, la proiezione okay. ortogonale della parte sì. del pallone potrebbe, ma io non te lo so dire, potrebbe anche in qualche modo essere perpendicolare alla linea e quindi non essere gol. Questa è la sensazione che ho io. Sì, poi sì. c'è un grande bluff oggi, un grande fallimento, che è la telecamera sul palo, perché se la telecamera sul palo è un centimetro più a sinistra o un centimetro più a destra, cambia completamente e stravolge. Quindi quella telecamera sul palo, secondo me, non è utilizzabile, e in linea di massima non dovrebbe essere utilizzabile nemmeno quella sopra. Però la strisciolina verde si vede, e quindi, ti ripeto, secondo me la parte del pallone che batte per terra è dentro. Rimane la possibilità che, in effetti, nella, non so se è una lezione di geometria terribile, però che la parte, diciamo, del pallone che non tocca per terra, più interna, sia con proiezione ortogonale perpendicolare sì. alla linea di porta, e quindi non sia gol. Garcia sta dicendo, Garcia sta dicendo, il gol di Astori c'era, perché evidentemente ha l'occhio clinico, con la goal line technology non avremmo avuto problemi. C'è un'immagine che è quella utilizzata in questo momento da tutti quelli che dicono che è gol di un metro, che sì. è l'immagine della telecamera dall'alto. E c'è l'immagine invece, quella della linea di porta, di tutti quelli che ti dicono che non è gol, che dicono ma sono la telecamera che è in linea, quella sta linea di porta, non ti fa vedere che il pallone ha superato completamente la linea. Sì. Io no, ma io dimmi una cosa. Pier, ho fatto pure lo scientifico. No, aspetta, sì, anch'io. Ma dimmi una cosa, ma hai visto sì. 2800 miliardi di partite, ne hai commentate altrettante, eccetera eccetera. Tu, quando hai visto quella palla, la sensazione che hai provato qual era? Io, la mia sensazione in quel momento conta zero. No, ma quale io stata? Ho avuto la sensazione fosse gol lì per lì, ma la sensazione non conta nulla. No, sensazioni nulla. Sbagliate. No, per me ti dico, alla fine di tutte le immagini, l'unica immagine che ci dice qualcosa è quella lì, perché lì comunque tu vedi tra il pallone e il bianco, tu vedi del verde, quindi vedi che la parte che tocca terra, che c'è praticamente fra la linea di porta e la parte del pallone che tocca per terra, c'è dell'erba. Quindi quella parte lì è dentro, certo. Però ripeto, la parte invece che è sospesa della sfera potrebbe, nella sua proiezione ortogonale, certo. essere sulla linea. Certo. Detto questo, il 24 dicembre, forse non c'è Duccia Capuano, abbiamo uh-huh. parlato un po' di arbitri, sì. ed un nostro ascoltatore, Pierluigi Collina, insomma, ci sono tanti addetti ai lavori che ci ascoltano, mi ha chiamato, ero in macchina, stavo scendendo, dopo la trasmissione, e abbiamo parlato lungamente, ironia della sorte, proprio di tutto questo, cioè della tecnologia, del fatto che gli arbitri di porta fino a questo momento avevano evitato gli errori e le situazioni clamorose. Il caso Montari, ricorderete, era stato prima dell'introduzione certo, di arbitri di porta, certo. Il caso clamoroso di Baricardi, quello di Baricardi dell'altro giorno in Serie B, non ci sono gli arbitri di porta. E Collina mi aveva detto che l'UEFA andrà avanti su questo tipo di procedimento, perché sai che c'era la voce che gli assistenti di porta venissero fatti fuori, no? Almeno sì, in Italia. Sì, sì. Quindi l'UEFA andrà avanti, ho avuto una conversazione interessantissima con Collina che mi è tornata in mente tantissimo oggi. Diciamo che insomma, oggi siamo veramente in una situazione, come dicono gli americani sulle elezioni, too close to call, cioè sì. stiamo parlando di un margine d'errore. Io non so neanche dirti se la goal line technology, che certamente sarebbe la soluzione migliore, la goal line technology che sarebbe la soluzione migliore, potrebbe addirittura, secondo me, essere talmente al limite questo caso sì, che sì, la sai la tolleranza sì, statistica, no? Che è di credo un paio di centimetri sì. Della goal line technology, poteva probabilmente non darci una risposta nemmeno stavolta. Detto questo, se c'hai comunque uno strumento tecnologico, in ogni caso ti eviti delle polemiche, alla peggio te la prendi con, sì, no? te la prendi con la tecnologia e a quel punto possiamo prendercela con chiunque o con qualunque cosa, però a quel punto c'è la tecnologia, prendiamocela con le telecamere. Un'ultima cosa, Pier, la Roma ha meritato di vincere? Ma è stata una partita strana, insomma, la Roma, diciamo che è andata in vantaggio al 18esimo e poi non ha praticamente mai rischiato fino all'episodio finale del possibile calcio di rigore per l'intervento di Emanuelson, veramente un intervento scellerato, anche questo secondo me al era rigore molto... era rigore, come direbbe, cioè, è al gore. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere, un intervento secondo me questo. Secondo me delle due cose, quella sulla quale alla fine di tutto l'Udinese si può lamentare di più è la somma dei due sì, episodi, no? Sì, la sì, somma dei due episodi, sì. Così come quando la Roma si è lamentata dopo Juve-Roma, si è lamentata non soltanto di un singolo episodio, ma del complesso degli episodi chiave della partita. Certamente queste due decisioni, quella complicatissima sul gol, che ripeto, secondo me è probabilmente gol, ma anche adesso c'è Sabino Nera qui che mi fa vedere l'immagine dall'alto, mi continua a far vedere l'immagine dall'alto è chiarissima, sì. E non a caso è l'immagine che io stavo cercando di utilizzare più spesso, perché secondo me è l'unica che ci dice realmente qualcosa. Però rimane quella possibilità, cioè che la parte del pallone, no, la parte sospesa del pallone possa essere in proiezione, in realtà su linea di porta e non dentro. E sul rigore, secondo me, il rigore ci poteva stare, e quindi insomma lì la sicuramente la Roma ha rischiato tantissimo. Non ti dico, la Roma deve chiudere le partite, questa è evidente, ha avuto nel secondo tempo, alla fine ha avuto quattro occasioni abbastanza clamorose. Quella di Totti, quella di Florenzi, insomma doveva chiuderla prima, sì, sicuramente, sì. E un po' come è successo anche col Genoa, ha rischiato di complicarsela. Pier, la Lazio arriva meglio al derby rispetto alla Roma? Beh, la Lazio ieri è stata strepitosa, la Lazio sta, io ho commentato contro l'Inter, ha giocato 60 minuti fantastici, è vero pure che insomma è un grande derby, è una grandissima partita, arrivano bene tutte e due, insomma sì, non è facile comunque passare, superare questi ostacoli, Sono giornate chiavi, perché vabbè stasera c'è Juventus-Inter, domenica c'è Napoli-Juve, c'è il derby di Roma, insomma sì, sono giornate chiave, sono giornate chiave, sono anche giornate che è bello vivere così, no? Ma sicuramente, ed è certo che a questo punto forse dopo questa giornata di campionato ho la sensazione che gli universi polemici tra Juve e Roma in qualche modo, non dico che si ribalteranno, si riequilibreranno, perché sì, insomma l'abbiamo detto, Garcia ha fatto la sua partita, ha fatto il suo gioco, dopo quello Juve-Roma spesso ha richiamato quella partita, ha gettato pedini sul campionato, ma insomma come fa Mourinho, come fanno gli allenatori, certo, certi allenatori games, in maniera legittima, no? Adesso ho la sensazione che dopo questa giornata di campionato sarà più difficile fare questa cosa e magari sarà la Juve invece che comincerà a farlo. Ma tu lo dici sempre, Pier, alla fine tirando le somme, poi le somme non potranno mai esserci, calcoli esatti, gli episodi si equilibrano, cioè alla fine del campionato non lo so se gli episodi si equilibrano, sinceramente non lo possiamo, so. Possiamo fare è una delle cose, io oggi veramente te lo dico sinceramente, ho raccontato una partita che è stata brutta dal punto di vista spettacolare e che è stata veramente più che altro una lezione di geometria, sì. A me da telecronista non diverte, cioè te lo dico, a me diverte raccontare le grandi partite, i grandi gol, le partite belle, intense. Chiaramente ci sta anche questo, io non faccio il modiolista all'arbitro della vita, quindi non so neanche dirti poi alla fine, non sto lì col quadernino a dirti. No, certo, ma nessuno, a sensazione però, nessuno sta lì. Andiamo geometria all'algebra poi, no? Per capire se le situazioni si finiscono per riequilibrarsi oppure no. Pier, ci sentiamo domani! Ma no, ci sentiamo fra un po', adesso c'è no, abbiamo una sola ora oggi per la Befana, domani. Ciao. Pier, mi hai promesso che entro la prossima diretta televisiva ti taglierai la barba. Che già, tra l'altro, non ha. Senti, mi intriga il ritorno di Gianfranchino Zola in Italia come allenatore, prima esperienza da tecnico, sì, poi a Cagliari. Abbiamo chiuso. Ho capito, infatti andiamo a vedercela. Ci vediamo. Maurizio da Milano, ci sentiamo domani, per favore. 800240024, tanto. Ma domani non ci saranno tanti ascoltatori che vorranno venire. No, domani pochissimi, guarda. Poi stasera andiamo a vedere le partite di oggi, questa sera alle 21 il derby d'Italia con 1001 motivo di interesse, e domani ne parliamo. Franco Piantanini, il nostro autore qui con me, Fabio Cantadori in regia, Daniele Buonamici in redazione. Ciao a tutti.